con Alex Mezenga, curatore del progetto fotografico Hashtag a casa loro, che sarà presentato a Roma, lo Spin Time Labs, giovedì 29 novembre. Alex, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ci presenti questo progetto? Sì, allora il progetto A Casa Loro nasce dall'esigenza che viviamo in un momento storico dove i fondi all'editoria praticamente sono sempre di meno e quindi per noi fotoreporter raccontare le storie del mondo diventa sempre più difficile, perché chiaramente non troviamo spazio nelle pubblicazioni, quindi le riviste, i giornali non ci acquistano più i lavori e praticamente quasi quasi veniamo silenziati. E quindi ho pensato di fare una denuncia contro la mancanza dei fondi e contro anche la voglia di voler dare un contributo per essere sempre informati delle storie e di quello che succede nel mondo, e quindi è partita questa campagna di crowdfunding per realizzare dei servizi, dei reportage dalle zone da dove vengono la maggior parte delle migrazioni, per andare a conoscere le storie non solo disperate poi, cioè perché dobbiamo anche conoscere casa loro, e quindi diciamo questo è l'obiettivo. Proprio per questo il primo step, i primi viaggi saranno in Somalia e spero in Siria, perché quello, diciamo, della Siria è ancora in organizzazione, però andremo a raccontare delle storie positive e non solo disastri. Allora, saranno delle missioni con più persone, allora, a questo punto, immagino. Sì, la prima sarà con una mia cara amica, io la chiamo un angelo perché lei praticamente da 4 anni aiuta una dottoressa in Somalia, e andremo a raccontare la storia di questa dottoressa che in pratica lei nel 1991 è dovuta scappare dalla Somalia e si è rifugiata in Italia. Grazie a una cooperazione internazionale ha ricevuto dei fondi per potersi laureare qui alla Sapienza, si è laureata, è diventata una splendida ostetrica e nel 2009 decide di tornare a casa sua, quindi a casa loro. E è una splendida storia perché lei torna e comincia una battaglia contro la mortalità materno-infantile, contro la pratica dell'infibulazione. La fondazione Rita Levi Montalcini l'ha definita l'angelo di Mogadiscio, e quindi insieme a Flora Cianciullo, questa mia amica che da anni si impegna a portare e dare aiuti ad Ascia, andremo insieme e racconteremo questa storia. Mentre gli altri viaggi li farò sempre in collaborazione, magari anche con altre organizzazioni, e quindi è un lavoro di condivisione anche. Ecco, in questo senso, con quali organizzazioni hai lavorato e a quali organizzazioni fai generalmente riferimento? Allora, diciamo che negli anni, cioè partiamo però da una piccola postilla. Io ho fatto dal 2003 al 2007 l'inviato in molti scenari di conflitto e post-conflitto, dal Medio Oriente al Sud America, sono stato 3 anni in Colombia, e chiaramente ci si incontra e ci si scambia e ci si appoggia a tutte quelle organizzazioni, non solo le più grandi, ma ce ne sono anche tantissime molto molto piccole, anche a volte individuali, ma che fanno tantissimo. E però, come dicevo prima, è dal 2011 che il mercato si è fermato, e in questo senso neanche con le organizzazioni umanitarie si riesce a raggiungere certi posti, ma soprattutto il problema più grosso è un altro, è che se io investo del denaro per dei viaggi, per andare a raccontare delle cose, ma io poi non posso avere la distribuzione, non solo il rimborso e il minimo guadagno per poi vivere, ma se poi queste fotografie non trovano spazio, se non date gratuitamente, e perdonami, che il lavoro non è più lavoro se è gratuito, A questo punto il problema grosso, come diceva Tiziano Tersani, se la storia nessuno la racconta, la storia non esiste. E quindi con questo progetto noi dobbiamo contribuire ad essere coscienti che la storia va raccontata, perché se no rischiamo di essere silenziati, ma soprattutto di non conoscere quello che succede nel mondo. Ti faccio un esempio piccolo, sì, per farti capire meglio. C'è una fotografia che probabilmente è una delle più famose ed è stata sicuramente vista. Nessuno può dire: ah no, non l'ho vista, no, non so di cosa parli. Ed è la bambina vietnamita che scappa a braccia allargate, nuda, sì, perché è stata praticamente appena bombardata al napalm, la sua zona, e lei praticamente i vestiti sono bruciati addosso e scappa su questa strada insieme ad altri bambini. Ecco, se i fotografi che raccontavano il Vietnam avessero vissuto questo periodo storico e non quindi non potevano stare lì perché nessuno li pagava, nessuno li pubblicava le foto, noi non avremmo avuto coscienza di quello che succedeva e non possiamo negare che la fotografia abbia avuto un contributo importantissimo per la nascita di organizzazioni, no, contro la guerra, contro il Vietnam, le manifestazioni pacifiste, e quindi la fotografia diventa uno strumento determinante e non possiamo farne a meno. E qui si rischia questo, si rischia che la nostra storia contemporanea non venga raccontata. Sì, sì. In chiusura, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, allora, il mio sito internet che è www.alexmezenga.com. Alex Mezenga su tutti i social e ti aspetto a Springtime Labs 29 novembre dalle 18:30, alle 19 ci sarà anche la mia carissima amica Federica Angeli, che anche lei chiaramente battaglie ne sta facendo tantissime, e insieme daremo vita a una sorta di intervista a due dove parleremo di censura e dove rifletteremo sul momento così difficile per il giornalismo d'inchiesta e per la fotografia documentaristica. E allora un saluto e un ringraziamento al fotografo Alex Mezenga che ci ha parlato del suo progetto A Casa Loro. Alex, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, vi aspetto in tanti, ciao. Ciao.